as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e Rose. Qualche puntata l'ho saltata perché insomma ho avuto qualche problema. Oggi puntata dedicata alla manifestazione del 7 ottobre. Recupereremo qualche altra puntata che non abbiamo fatto, in cui in realtà sono stato un po' in giro e ho parlato con tanti delegati, poi più in là vi manderò queste puntate che ho saltato, però sono interessanti. Invece oggi, la manifestazione del 7 ottobre, siamo stati lì, in manifestazione insieme ai compagni della Mani di Marelli, abbiamo partecipato a questa manifestazione della CGIL, bellissima, c'era tanta gente, era un sacco di tempo che non vedevo una manifestazione così. Siamo tornati nella nostra piazza, piazza San Giovanni, la piazza che per me, per tutti i compagni come me, ha un valore, insomma, è sentita. Era quasi piena, non era piena come ai tempi, insomma, quelli storici, però sono anni che non si vedeva una manifestazione così. Lì abbiamo intervistato Samuele Lodi della segreteria della FIOM, perché con lui volevamo parlare dal nostro punto di vista, quello dei metalmeccanici, anche perché questa manifestazione c'erano più di 100 associazioni, c'era tanta gente, anche se la stragrande maggioranza erano militanti della CGIL, delle varie categorie della CGIL, insomma, però c'erano tante associazioni, le abbiamo viste. La via maestra della Costituzione, in cui sono scesi in piazza tutti quelli che condividevano i punti sollevati da Landini e non solo da lui, punti che chiedono al governo di non cambiare la Costituzione e di attuarla. Per adesso sentiamo un bellissimo pezzo che io amo tantissimo e poi ci ascoltiamo l'intervista che ho fatto a Samuele Lodi e poi come al solito facciamo le nostre conclusioni. C'è tanto da dire. Positive Body Control. Pero solo es una estrategia. Tienen dinero en el bolsillo y la vida resuelta. Y piden unidad poniéndote falsas caretas. Piden unidad a base de sonrisa plena. Les guía el maligno por la senda no correcta. Si Satan dice tírate, todos van y lo intentan. Han vendido su alma para subir la escalera. Y piden unidad. Han creado una historia para que te la creas nada más. Piden unidad. Piden unidad. Hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me van a comprar. No, no worry, no worry. Mi absolute hands every morning. No worry, no worry. Me a hustle as a food is coming. No worry, no worry, yeah. Babylon na na na stop we growing. So no worry, no worry. Be you. Si gira derecha, gira a la izquierda, hacen lo que diga la gente. Miran tu vida antes que la suya solo por sentir diferente. Llevan el mando en su casa pero aquí en el porrio no dura ni ente. Están vacíos por dentro y aseguran y lo entienden. Piden unidad al hombre del cash, buscan el vacío legal de cómo acabar con la sociedad en un tiki-tac y así ampliar capital. Piden unidad a la masa perdida que apenas se recupera de la herida. Si cada familia tuviese comida no habría tanta necesidad. Piden unidad, piden unidad. Han creado una historia para para que te la creas nada más. Y piden unidad, piden unidad. Y hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Y piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá. Y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Y prenden fuego al sudor de mi frente. Y prenden a los artesanos cuando venden. Prenden en la calle al indigente. Y prenden al que no vela sus intereses. Venden solamente lo que ellos quieren. Y venden a su madre por 20 billetes. Sienten ser superiores a otros seres. No van por el camino, les guió Mephistófeles. No worry, no worry. Absolute hands every morning. No worry, no worry. Me a hustle as the food is coming. No worry, no worry. Babylon na na na, stop we growing. So no worry, no worry. Be you, historia para que te la creas nada más. Y piden unidad, piden unidad. Que hablan de su barrio como si fuese un suburbio letal. Y piden unidad, piden unidad. Manejan un carro reluciente que pagó su papá. Y luego piden unidad, piden unidad. En su casa no faltó el pan que me pone a contar. Y allora siamo qui con Lodi, la segreteria della FIOM, siamo a Roma, insomma manifestazione riuscitissima, siamo davvero in tanti, abbiamo fatto lo spezzone insieme ai compagni della Magneti Marelli, oggi ci sono anche loro qua. Sì, ci sono anche loro chiaramente a fronte anche di quello che è successo nelle ultime settimane nel gruppo Marelli, a partire dall'incontro fatto in Confindustria a Roma il 19 settembre in cui ci hanno comunicato formalmente la decisione presa dal gruppo di chiudere lo stabilimento di Crevalcento, una decisione assolutamente irricevibile per noi e unitariamente fin dall'immediato abbiamo deciso per la mobilitazione e lo sciopero. Ci sono già stati anche due scioperi di 8 ore che hanno coinvolto tutto il gruppo in tutti gli stabilimenti del gruppo ed è evidente come la lotta adesso andrà avanti perché noi vogliamo una soluzione industriale per quel sito che garantisca la prosecuzione dell'attività e la salvaguardia occupazionale totale. Allora oggi nella manifestazione abbiamo visto, eravamo in testa, Spezzone FIOM, una grande manifestazione della CGIL, oggi siamo qui per tante ragioni, c'è chi dice che siamo contro il governo Meloni. Noi come metalmeccanici io credo che siamo contro la deindustrializzazione che sta arrivando. Uno dei punti, diciamo così, dei 6 o 7 punti alla base della rivendicazione della CGIL per la manifestazione di oggi è la mancanza e quindi la necessità nel nostro paese ormai da anni, quindi con una responsabilità diretta di questo governo ma anche di quelli che l'hanno preceduto, delle politiche industriali. Nel nostro paese non ci sono politiche industriali, noi vogliamo che si apra un tavolo permanente con governo, imprenditori, associazioni degli imprenditori e sindacato per decidere dove e in quali settori il nostro paese deve investire. Tra le rivendicazioni c'è anche la questione dello sciopero generale. Noi come metalmeccanici questa cosa qua la sentiamo parecchio. Oggi sarà uno dei temi in questa manifestazione, ci sarà, si parlerà anche di questo? Oppure aspettiamo la consultazione? È evidente come il percorso, diciamo così, c'è un percorso formale che prevede il termine della consultazione arrivare alla fine di ottobre. È altrettanto vero che soprattutto per noi metalmeccanici i tempi sono maturi per la mobilitazione e per lo sciopero generale. Tra l'altro noi unitariamente, e siamo stati l'unica categoria nel nostro paese, abbiamo già scioperato 8 ore il 7 e il 10 di luglio, proprio per dire al paese, per dire al governo che in questo paese abbiamo bisogno di politiche industriali, abbiamo bisogno di rafforzare i salari dei lavoratori dipendenti, abbiamo bisogno di fare un percorso virtuoso per quanto riguarda il contrasto alla precarietà, le pensioni e il fisco. Certamente oggi ci sono metalmeccanici sia del sud, del nord, abbiamo visto tante categorie, ci sono tante associazioni, questa manifestazione è l'inizio di qualcosa. Questa manifestazione è importante anche, come dicevi, proprio per questo, il fatto che non ci sono solo le lavoratrici, i lavoratori e i pensionati della CGIL, c'è quella che chiamiamo molte volte la società civile, tante associazioni, anche cattoliche, che insieme vogliamo dare il segnale che nel nostro paese ci sono tante cose che non vanno, ma non solo dal punto di vista economico, e sono tante dal punto di vista economico che non vanno, ma anche dal punto di vista proprio del disagio sociale e anche dall'arretramento culturale che questo paese sta attraversando ormai da troppi anni. C'è anche la questione della guerra. Noi come Italmeccanici la stiamo subendo indirettamente, perché questa crisi dal mio punto di vista è anche causata dalla guerra, di quello che succede. È evidente che i segnali di crisi che abbiamo vissuto già dall'anno scorso con l'impennata dell'inflazione e poi purtroppo con situazioni di crisi che gradualmente stanno arrivando anche nel nostro paese, partendo dalla Germania, ma poi stanno arrivando anche nel nostro paese, ci toccano da vicino. Ma poi dopo appunto c'è anche in prospettiva, questa guerra va fermata. E come ha sempre detto la FIOM e la CGIL fin dall'inizio, l'unico modo per fermare questa guerra è la strada della diplomazia, non ci sono altre strade. Sentiremo Landini alla fine, speriamo che faccia un appello, c'è una forma di unità, io vedo anche della politica, in un certo senso c'è anche un sacco di politica, di politici, vedo che ci sono un sacco di organizzazioni, anche se non ci sono le bandiere di partito, però le associazioni ce ne sono tantissime, c'è un'associazione, si mettono in moto e questa manifestazione dà anche senso che l'Italia non è ferma qui, esatto. È una c'è molta gente qua che contesta il governo apertamente. Esatto, assolutamente, e noi dobbiamo e vogliamo dare voce a tutta questa gente, perché appunto non dobbiamo dimenticare che purtroppo ormai da anni, anche nelle ultime elezioni, la metà della popolazione che potrebbe andare a votare non va a votare, perché è evidente che riscontra un voto della politica. Noi non vogliamo riempire gli spazi della politica, però dobbiamo dare voce assolutamente al disagio che tutto il paese sta vivendo. Spero che andiamo avanti, io mi auguro lo sciopero generale e che riusciamo a fermare questa deindustrializzazione. I tempi per lo sciopero generale sono maturi, bisogna lavorare tutti insieme, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali, pur se il percorso è difficile, per arrivare più che a uno sciopero generale o oltre a uno sciopero generale a una stagione di mobilitazione nel nostro paese. Siamo d'accordo. Ciao, grazie mille. Grazie a voi. No ceos intento, baixo o astro mudo, batendo asas, na noite calada, veñen en bandos con pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. A todas partes chegan os vampiros, posan nos predios, posan nas calzadas, traen o seu ventre de esposos antigos, mas nada os prende as vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Echando medo, toman os vencidos, oen sos gritos na noite apapada, xacen nos fosos vítimas dun credo, e non se esgota o sangue da manada. Son os mordomos do universo todo, amos a forza, donos en lei, enchen as tullas, beben viño novo, danzan a ronda no pinal do rei. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas. Si alguien se engana, cose guar si sudo, ellos franquea las puertas a llegada. Ellos comen todo, ellos comen todo, ellos comen todo y no dicen nada. Ellos comen todo, ellos comen todo y no dicen nada, nada de nada. Ellos comen todo, ellos comen todo, ellos comen todo y no dicen nada. Ellos comen todo, ellos comen todo y no dicen nada, nada de nada. Ellos comen ascoltato di Now, bellissimo, insomma, Vampires, che è un pezzo che metto spesso in radio, è vero, però non, a Bologna non li mette nessuno, dunque ne approfitto. Secondo me sono un gruppo, per chi come me, che è un compagno che parla di temi del lavoro, di battaglia al capitalismo, di cambio della società, è qualcosa di, insomma, ci sta, alla grande. Prima di Now abbiamo ascoltato Samuele Lodi, abbiamo toccato con lui una serie di temi legati a noi metalmeccanici più che alla manifestazione in sé. Nella manifestazione abbiamo ascoltato tanti temi, Landini li ha riacchiusi un po' tutto, parlando delle necessità di questa manifestazione, di chi in questo paese non vuole accettare lo status quo, cioè le cose che stanno accadendo tutti i giorni, che vediamo davanti a noi. Un paese in crisi, un paese in guerra, un paese che fa delle scelte ben precise di politica economica, un paese che ha scelto di fare condoni per aiutare gli evasori fiscali, un paese che ha scelto di abbassare le tasse alle partite IVA, arrivare fino al 15% con la flat tax, e un paese che ha scelto di tagliare la sanità, un paese che ha scelto, insomma, da che parte stare? Certamente non dalla parte dei lavoratori, anche l'ultima riforma la finanziaria, abbiamo visto che comunque sia i tagli rimangono e tutte le riforme che vogliono fare teoricamente vanno ancora avanti, e ci sono solamente briciole per i lavoratori, non c'è il salario minimo. Da quella piazza il 7 tantissime voci si sono alzate per chiedere questo, come la lotta all'evasione, non ne vediamo assolutamente nemmeno l'ombra in un paese che ne avrebbe davvero bisogno, e Landini ci ha ricordato tutte queste cose. Ma con Samuele Lodi abbiamo parlato di noi, dei metalmeccanici, perché sta arrivando una crisi. Questo inverno sarà freddo per noi metalmeccanici. La guerra sta portando la deindustrializzazione, l'inflazione sta portando la chiusura di stabilimenti, la cassa integrazione che peggiorerà le condizioni dei lavoratori metalmeccanici e non solo. Le sanzioni, quello che accade, adesso la guerra in Palestina, ci immaginiamo che costi energetici andano alle stelle, è successo sempre questo ogni volta che c'era una guerra in Medio Oriente. Questo peggiora le cose. Questo governo non è assolutamente intenzionato di affrontare, non ha proprio gli strumenti per affrontare una cosa del genere. La transizione ecologica che sta colpendo tante aziende, la Maria di Marelli è una di queste, questo governo sta facendo assolutamente nulla per traghettare questa transizione cercando di salvaguardare i posti di lavoro. E noi siamo preoccupati, molto probabilmente domani la CGIL deciderà forse per fare uno sciopero. Landini ha detto chiaramente: noi siamo quelli che paghiamo le tasse, noi non ci fermeremo. Lodi ha parlato di una cosa molto molto importante, quella che noi chiediamo, soprattutto chi come me fa parte di gruppi, diciamo, ci chiamano di estrema sinistra all'interno del sindacato, stiamo chiedendo più che sciopero in generale un periodo di lotta, una stagione di lotte,

solo tanta rabbia che cresce dentro me. Sarà che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare.